Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. 17 gol, davvero pochi. E pochi punti in classifica per le due capoliste Juventus-Udinese, anzi, mai così pochi, in assoluto nell'era dei tre punti che cominciò nel lontano 1994. Al punto che le squadre in vetrina non sono quelle che ci saremmo aspettati un mese fa, ma solo l'Atalanta, che sarebbe sola in testa senza il meno 6 da cui è partita. Sono il Chievo, che in quattro giorni ha battuto due capoliste una dopo l'altra, Napoli prima e il Genoa poi, e il Siena, secondo me almeno, perché questa squadra di Sannino, dopo aver dominato la Roma giovedì scorso all'Olimpico, sbagliando, avendo il solo torto di sbagliare troppi gol, ieri ne ha segnati tre a Lecce e ha ottenuto il risultato più netto della giornata. Qualche curiosità statistica in attesa di ascoltare le voci dei protagonisti del fine settimana calcistico e in attesa soprattutto dei vostri interventi del lunedì all'8.00.24. Beh, intanto questi due gol di Moscardelli. È vero che il capocannoniere Rodrigo Palacio del Genoa, che è andato a bersaglio anche ieri a Verona, ma è vero che proprio a Verona Moscardelli ha segnato i due gol della vittoria nel giro di quattro giorni, prima vi dicevo contro il Napoli e poi ieri contro il Genoa con un bel tuffo di testa dall'area piccola. Le quattro sconfitte del Cesena, che lo tengono fermo purtroppo per loro a zero punti, sono ancora più sorprendenti se si pensa che lo scorso anno a quest'ora aveva sette punti in classifica e quindi una situazione di tutta tranquillità, a differenza di quella di adesso, che comincia a creare qualche segnale di allarme, no? Perché è evidente che quattro partite senza un punto sono davvero tante. In compenso, però, ecco da dove il Cesena potrebbe trarre un motivo di ottimismo. In compenso, lo scorso anno a quota zero c'era l'Udinese, che poi sappiamo che razza di rimonta ha fatto fino a giudicarsi la quarta piazza valida per la Champions League, e lo scorso anno aveva sempre perso col Genoa, l'Inter, la Juventus e il Bologna e aveva ottenuto il primo punto dopo alla quinta giornata contro la Sampdoria. Adesso l'Udinese per l'appunto 8 punti in più e forma la coppia bianconera di testa della classifica insieme alla Juventus. Possiamo partire con la prima voce da ascoltare. Chiedo un attimo di pazienza. Oggi c'è un ascoltatore, ci sono due o tre ascoltatori di una velocità incredibile nel prendere la linea. Sentiamo soltanto qualche frammento vocale, per esempio di quelli che insomma, non capita poi così spesso di sentire, no? Per esempio Moscardelli. Espulsione, rigore sbagliato, ma ci abbiamo creduto, è questa la forza di questa squadra e lo stiamo mettendo in campo. In casa si cercano i punti per la salvezza, quindi sappiamo che dobbiamo contare sulle mura amiche, quindi niente, ci proviamo. Oggi è anche andata bene, cerchiamo di fare qualche punto anche fuori casa. Oggi scrive Davide Di Biglio da Alba, oggi Enzo Bearzot avrebbe compiuto 84 anni e io ci terrei in modo particolare a ricordarlo. Scrive questo ascoltatore, che ringrazio di cuore per non aver lasciato passare inosservata, ma da parte vostra, non da parte mia, che evidentemente c'ero in testa e come, per non aver lasciato passare inosservata questa data. Sentirei ancora un protagonista serale dopo quello pomeridiano di Chievo-Genoa e cioè il Osvaldo, che ha firmato la prima vittoria in campionato della Roma. Sì, penso ci meritavamo questa vittoria perché stiamo facendo un lavoro enorme, tanto sacrificio dentro il campo e fino adesso la fortuna non è stata tanto dalla nostra parte. Per il mister, per i compagni, per quelli che sono rimasti a Roma, per tutti meritavamo questa vittoria per liberarci un po', come dici te, mentalmente anche, no? Beh, di sicuro la Roma dà la sensazione di crederci, cioè al di là poi della qualità, della fatica che fa, di un progetto tecnico e soprattutto tattico che insomma, fa fatica a decollare, è ancora contraddittorio. Però se c'è una cosa che mi ha colpito in questo fine settimana, ma anche già nelle partite di mercoledì e giovedì, è quanto ci credono la Juventus e la Roma, cioè quanto questo progetto, insomma, questo rinnovamento che queste, sia pure molto diversi tra loro, che sia la Roma che la Juventus hanno intrapreso, quanto stia per il momento almeno coinvolgendo tutti, cioè dalla società fino agli interpreti sul campo, indipendentemente poi dal buon esito, indipendentemente dai risultati. Giovanni ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno Garanzini, a lei chi ci ascolta. Niente, su Chiellini abbiamo già dato, l'ho già detto anche giovedì eccetera. Io volevo parlare un secondo di Buffon, mi costa molto questa telefonata. Ieri il gol subito forse poteva allungarsi un po' di più, ma soprattutto il gol subito dal Bologna non poteva secondo lei uscire, visto che chi ha colpito di testa era vicino a lui, non era in mezzo al traffico dove lui poteva anche non arrivare, era molto vicino. Vabbè, Chiellini non è saltato, però insomma secondo me, essendo molto vicino sulla linea quasi dell'area di porta, secondo me un portiere deve uscire. Non blocca più tanti palloni, vedo che respinge, insomma mi sembra che anche lui sia in calo. E prima ci regalava tanti punti e ora è un portiere normale, non dico che ce li leva, ma insomma cosa ne dice lei? No, dico che insomma, Buffon ha passato un periodo difficile, ne è uscito, non è ancora il Buffon di prima, perlomeno non fino in fondo, però non possiamo neanche dargli le colpe che ne va, cioè che non ha. Se lei mi parla del gol che ha preso col Bologna, non ha nemmeno il tempo di uscita, perché questi hanno fatto una bella azione sulla sinistra, hanno crossato bene, la palla era a uscire, è arrivata oltre il vertice dell'area piccola dove Portanova la schiacciata di testa bene, e oltretutto perché Buffon deve andare ad avventurarsi in una situazione del genere quando la difesa è schierata e quando c'è o doveva esserci un uomo che perlomeno non avesse consentito a Portanova di staccare così libero, così sereno, no? E di colpire a quella maniera. Io credo che l'inizio del suo intervento, cioè il problema di Chiellini, sia più d'attualità e chiami in causa sia il pareggio di Bologna, il gol del pareggio di Bologna, che il gol del vantaggio di ieri del Catania. Tino, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Senta, io volevo proprio, adesso lei ha parlato di Chiellini, cioè l'ultima parola che ha detto. Senta, io volevo proprio parlare di lui. Le chiedo, come mai secondo lei sia Ranieri, sia Zaccheroni, sia Prandelli, adesso lo stesso Conte, non si rendono conto che Chiellini come centrale non è questo fenomeno, questo baluardo, questo personaggio che tutti hanno esaltato e alla fine combina, diciamo, in difesa purtroppo è così, è come il portiere, se si combina un guai è gol, quindi non è il suo ruolo quello, lui va bene come difensore sinistro, dove ha potenza, ha fisico, c'è poco, io non lo vedo come difensore centrale, quindi continuano a insistere su questo giocatore in mezzo al campo e anche in nazionale. Grazie. Grazie a lei, Tino. Le perplessità su Chiellini crescono, non c'è dubbio, e non sono così recenti. Chiamano in causa, come lei ha ricordato, già situazioni pregresse, però più passa il tempo e più quello che si pensava fosse il nuovo leader della difesa della Juventus della nazionale, invece scricchiola e dà l'impressione di non esserlo leader. Col Bologna Buffon ha preso gol da corner, scrive Federico d'Alessandria. Sì, in effetti il cross che arrivava da sinistra era un cross a palla ferma dalla bandierina, però insisto, ma anche questi ascoltatori che scrivono sono completamente d'accordo. Adesso, che Buffon non sia più quello delle stagioni migliori, o non sia ancora quello, ancora io ci proverei a metterci, anziché più, non sia ancora quello delle stagioni migliori è un dato di fatto, ma che poi non gli si possano affibbiare le responsabilità sui gol dove davvero non c'entra, mi sembra altrettanto logico. Gianni da Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io vorrei lanciare un messaggio ad Antonio Conte. Io credo che se lui non allontana Del Piero e Buffon dalla squadra, allontanare significa anche non neanche nella panchina, lui rischia di fare la stessa fine che ha fatto Deschamps, Ranieri, Zaccheroni, Ferrara e Del Neri. Questo è un rischio grosso, perché questi giocatori creano per me dei problemi grossi anche a livello di sfogliatoio. Grazie. Grazie a lei, non so se Conte sia all'ascolto, non so se abbia, in ogni caso se abbia intenzione di come dire, cogliere il suo appello addirittura, che mi sembra un po' fortina come espressione. Io credo che Conte abbia la personalità sufficiente e anche un mandato abbastanza ampio dalla società per intervenire qualora dovesse ravvisare qualcosa, insomma, qualche turbativa interna vera. Io nel caso di Buffon in particolare proprio non ci penserei nemmeno. Una riflessione magari sull'altro versante potrebbe anche essere fatta, anche lì alla luce di situazioni pregresse. Nico da Bari, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Sono d'accordo con il fatto che Chiellini è un buon difensore, ma non di più. Poi volevo dire, per quanto riguarda l'Inter, visto che comandano, si dice che comandano spogliatoio, eccetera, eccetera, non sarebbe più semplice fare una riunione, sai, col presidente e chiedere che allenatore vi piace? Grazie. Sì, anche questa è una teoria un po' ardita, una cogestione. In ogni caso, sì, insomma, il suo intervento sottende un po' di, no? un po' di riflessioni, e cioè questi giocatori magari si impegnano di più di quanto si impegnassero prima. Io non credo sia una questione di impegno, io credo sia una questione di convinzione in quello che fai, e ho l'impressione che né Benitez e nemmeno Gasperini, forse non so chi dei due di più, insomma, non avessero convinto la squadra a dover cambiare, comunque a cambiare sistema di gioco, perché loro credevano in un altro tipo di gioco. Benitez perché quello era un Inter che aveva appena vinto tutto e quindi era un po' difficile da smontare, e Gasperini perché probabilmente il suo genere di calcio avrebbe avuto bisogno di altri interpreti. Poi può darsi che, come spesso accade nel calcio e all'Inter, glieli avessero promessi o almeno fatti balenare in estate, e poi invece, non essendo arrivati, insomma, è stato difficile. Lui ha proseguito con le sue idee, insomma, è un discorso che abbiamo già fatto, no? Con una serie di errori reciproci, in cui il primo è certamente quello della società, eccetera. Quello della cogestione, cioè di dire, ragazzi, noi prenderemmo, che ne so, Ranieri, faccio per dire, Vi sta bene, potrebbe essere un'idea, perché in effetti la sensazione è che all'Inter, come in qualsiasi squadra di grandi giocatori collaudati che da tanto tempo stanno insieme, l'idea che poi questo cosiddetto spogliatoio pesi, beh, insomma, è abbastanza palpabile. Alessandro ha chiamato dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, come sempre un immenso piacere parlare con lei. Sono un milanista anticavaliere. Volevo solo fare i miei complimenti a Clarence Seedorf, perché è l'unico giocatore che è veramente un allenatore in campo, ed è per me un grosso rammarico non vederlo più a settembre vestire la maglia del Milan. La ringrazio, l'ascolto per radio. Ma io non sono poi nemmeno sicuro che non vestirà più la maglia del Milan, perché mi sembra da mo che non deve più vestire la maglia del Milan. Se lei è un ascoltatore affezionato, forse ricorderà negli anni, no? quanti anatemi da questi microfoni sono arrivati da parte di tifosi milanisti, competenza tutta da verificare per il mio, nei confronti di Seedorf. Poi quando vai a vedere, soprattutto quando arrivano i momenti o decisivi dal punto di vista qualitativo o difficili dal punto di vista del momento da interpretare e in questo caso da salvare, beh, poi combinazioni di Seedorf servono, e combinazione un allenatore come Allegri ti dice, e l'ho appena detto ufficialmente e pubblicamente sabato sera, che gente come Seedorf andrebbe semplicemente clonata. Sentiamolo Allegri dopo in questo dopo partita di grande sollievo, perché il Milan di questi giorni è davvero ridotto ai minimi termini. Anche stasera i ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo creato tante palle gol, come l'avevamo creato con la Lazio la prima. È normale che con la Lazio abbiamo concesso 20 minuti dove siamo andati sul 2-0 e poi dopo siamo stati bravi a riprendere, abbiamo sbagliato tanti gol. A Napoli abbiamo concesso 3 o 4 contropiedi e abbiamo preso dei gol anomali. Stasera un dato buono è che non abbiamo preso gol. Lo smalto dei giocatori, anche solo per i viaggi che facciamo, non può essere il massimale. Nessuno si chiede quando noi facciamo la partita come col Manchester, come col Milan, magari facciamo qualcosa di straordinario e ce lo scordiamo. Io continuo a dirvelo, però è sempre così, io vado avanti per la mia strada. Era una coproduzione Allegri Mazzarri, no? con tutta evidenza. Va bene, così abbiamo ripassato anche il commento del Napoli, perché è stato a parer mio molto interessante vedere la sovrapposizione continua di questa diretta di sabato sera delle partite di Milan Cesena e Napoli Fiorentina. Intanto perché aspettando il Napoli e il Milan per vedere quale delle due così era la più brillante, abbiamo scoperto che la più brillante in assoluto era la terza, cioè la Fiorentina, che ha giocato per almeno un'ora al San Paolo una magnifica partita. O forse un'ottima partita, magnifica è stata quella a parer mio di Cerci, che sta finalmente forse insomma emergendo e tirando fuori tutte quelle qualità potenziali che aveva mostrato da giovanissimo, prima nel Vivaio della Roma, poi nelle prime esperienze in provincia e poi causa un grave infortunio con ricaduta non era più riuscito a ripetere. Certo che ogni volta che vedo Cerci all'idea che è nato nella Roma e che è il giocatore che più da vicino ricorda degli ultimi 30 anni un campione come Bruno Conti, che la Roma l'abbia lasciato andare, continua a sembrarmi, a suonarmi molto ma molto strano. Buon per la Fiorentina, direi. Da Roma proprio, Michele, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Anche se sono un suo fan, vorrei metterla un po' in difficoltà. Allora, ieri ho letto sul Corriere dello Sport due lettere di tifosi della Lazio che protestavano perché sostenevano che Reja offende la tifoseria. La risposta del direttore Vocalelli, brevissima, era: cari amici, anche noi siamo rimasti sconcertati dalle dichiarazioni di Reja alla vigilia della trasferta di Cesena, quando aveva parlato di cornice marcia riferendosi ai tifosi della Lazio, dimenticando in modo grave sia dal punto di vista umano sia sociale che è quella cornice che finanzia buona parte del suo lauto stipendio. Può commentarmi queste dichiarazioni di Vocalelli? No, ne faccio a meno volentieri. Non lo immaginavo. Ne faccio a meno volentieri, Michele, la ringrazio della sollecitazione, ma insomma io già faccio abbastanza fatica a rispondere, cioè a essere garante di quello che dico e che scrivo io, si immagini se mi avventuro a farlo per altri. Alessandro, dalla provincia di Alessandria. Sì, pronto, buongiorno. A lei. Volevo farle una domanda, lei che tecnicamente penso sia più competente di altre persone, ricollegandomi anche a quello che hanno detto i precedenti ascoltatori, relativamente a Chiellini, alla difesa, in generale della Juventus. Io le chiedo come mai le squadre di Serie A continuano, cioè io ho giocato per un po' a calcio, la prima cosa che ho sempre sentito dire per le squadre per le quali ho giocato, nel quale abbiamo fatto dei risultati, era partire da costruire una buona difesa e poi successivamente tutto il resto dei reparti della squadra. Invece vedo che imperterriti sia gli allenatori che i presidenti di Serie A continuano a basarsi o per motivi di mercato, motivi di altro genere, a rendere forti il centrocampo, l'attacco e a dimenticare quella della costruzione della difesa. Vedersi l'Inter, vedersi la Juve, vedersi tante altre squadre. Le chiedo se questo è un problema generale o una volontà magari delle squadre di Serie A di optare per altri tipi di soluzioni, visto che la prima regola basilare è quella di avere una buona difesa, penso, per vincere i campionati. I dati sono quelli. Anche per me, Alessandro, e sono d'accordo con lei, che ha invocato le radici storiche di questo ragionamento. Io sinceramente tra secolo, cioè quando leggo, quando vedo, perché ormai si vede, non sono più anticipazioni, quando vedo che la difesa della Juventus è la stessa dello scorso anno, con tutti i problemi che ha avuto, e che in compenso in attacco ci sono sulla panchina e con pochissime probabilità, per non dire nulla, di essere impiegati a Mauri, Toni e Iaquinta, ma io credo che questo mestiere di manager, che okay, una volta fosse più facile da fare, ma ci fossero anche interpreti migliori, a parer mio, da un punto di vista proprio strettamente manageriale. Antonio Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare proprio della Juventus, nello specifico di Conte, che ahimè penso che anche quest'anno abbiamo sbagliato allenatore, perché la sua politica del sergente di ferro secondo me non paga, perché ho visto diciamo un Elia, un Krasic terrorizzato da lui. Al primo errore subito ho fatto riscaldare Pepe e ho giocato a calcio, e quando vedevo che si stava riscaldando il mio stesso ruolo, mi faceva sempre, diciamo, mi metteva in condizioni di non poter esprimere bene. Abbiamo aspettato un sacco di tempo per acquistare Elia e poi subito l'ha cambiato, non lo so, questa per me è una politica che non può pagare alla lunga, non so lei cosa ne pensa. Ma penso che in effetti un tempo senza magari terrorizzarlo o senza condizionarlo con questa cosa poteva anche concederglielo. Conte è un entusiasta, è riuscito a trasmettere molto entusiasmo e molta convinzione alla squadra. Adesso forse dovrebbe, non so, non dico rilassarla, ma metterla un pochino più tranquilla. La sua osservazione non è affatto male per il mio. Notavo che siamo a metà trasmissione, non si è ancora sentito nessuno lamentarsi di decisioni arbitrali. E allora probabilmente è vero quello che si diceva la settimana scorsa con Casarin, che la Moviola forse o senza forse, secondo lui, manca agli arbitri come può mancare agli arbitri come stimolo. Ma in compenso è servita a svelenire, cioè la sua abolizione quasi totale ormai è servita a svelenire i rapporti, gli indomani soprattutto, e questo significa che lentamente si può ricominciare a capire che, per carità, l'incidenza arbitrale c'è nella storia di un campionato, ma forse non è quella, se non in casi abnormi, che si è sempre cercato di costruire dalle nostre parti. Michele, mi pare, sì, Michele ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini, grazie per l'ospitalità. Sì. Ho chiamato per questo, ieri leggevo la stampa di Torino e esaltava le doti di Cassano, diceva che è stato un affare per Milan tenerlo e che si è caricato sulle spalle la squadra. Leggevo un altro quotidiano, non dico il nome, ma invece non lo riportava quasi per niente, la stampa dava 7-5 di votazione a Cassano e a Seedorf, l'altro quotidiano 5 a Cassano e 7-5 a Seedorf. Domanda, è un giocatore che serve al calcio italiano, come mai non c'è mai un giudizio netto su di lui? Non so, io non so a che quotidiano si riferisca, cioè uno l'ho sentito, l'altro non ha molta importanza. Se la prova di Cassano di sabato sera ha meritato 5, io cambierei quotidiano come minimo, perché magari 7-5 è tanto, però non c'è dubbio che Cassano, che era abituato a giocare molto poco, stia invece giocando molto, anche sul piano della quantità e della fatica, per ragioni evidenti di organico, perché il Milan ha fuori 12 perine, ma praticamente tutti gli attaccanti, tolto lui e tolto l'egiziano, e quindi giocando ogni 3 giorni mi sembra che Cassano stia mettendoci forse non la qualità consueta o la qualità a cui può attingere, no? Stante le sue doti, perché la quantità è nemica della qualità in certi casi, ma insomma di quantità in compenso ne sta mettendo tanta, sia dal punto di vista dell'impegno che dal punto di vista proprio della resa, del numero di palloni giocati, e quindi non capisco davvero nemmeno io perché un giudizio negativo su Cassano visto sabato sera contro il Cesena. Continuiamo con le nostre panoramiche di personaggi e potremmo arrivare per esempio a un capolista mancato, perché il Genoa era andato in vantaggio addirittura a Verona e quindi se l'avesse difeso a quest'ora, se avesse difeso perlomeno il pareggio a quest'ora sarebbe in testa alla classifica, se avesse mantenuto il vantaggio avrebbe staccato tutti, avrebbe gli stessi punti dell'Atalanta, che però come sappiamo non può figurare da capolista. Malesani. Ma eravamo stanchi, purtroppo ci sono tanti ragazzi che hanno fatto quasi tre partite di fila e abbiamo... Quando siamo rimasti in 10 a quest'ora con questo caldo l'abbiamo subito tanto e c'era un po' di stanchezza, purtroppo. È anche vero che abbiamo subito dei gol un po' con ingenuità, perché il gol che è vero che lì magari una marcatura più attenta su Moscardelli, però abbiamo perso una palla male in avanti, era finita la partita, bastava buttarla fuori. E invece non l'hanno buttata fuori. Marione Scaria da Trezzano sul Naviglio fa notare che oltre a Cerci c'è un'altra ala che sta facendo grandi cose, che è Schelotto, quello dell'Atalanta, ed è verissimo, perché è un altro dei protagonisti, proprio, cioè, dei protagonisti di questa giornata, ma io direi di questo avvio di stagione in particolare. Un altro protagonista ancora, secondo me, sempre, e un giorno o l'altro mi piacerebbe invitarlo per scoprire insieme a lui, per farci raccontare da lui le sue esperienze che lo hanno portato fin lì, è Sannino, questo allenatore debuttante del Siena. Io ho visto, forse l'ho già detto all'inizio, ho visto giocare splendidamente il Siena all'Olimpico, e poi ieri lo stesso Siena che era riuscito a salvare soltanto a salvare nel finale il risultato a Roma, nonostante strameritasse di più, ha cambiato 7 pedine, le stesse che Mazzarri ha cambiato prima della trasferta a Chievo, ma con altri esiti, e ha dato 3 gol al Lecce, che per essere una squadra che arriva dalla Serie B mi sembra un eccellente risultato. Ferdinando da Roma, buongiorno. Buongiorno, gli volevo fare i complimenti, secondo me è uno dei più competenti in Italia di calcio, per questo gli faccio 2 considerazioni. Io ho giocato 20 anni a calcio da libero, e mi hanno insegnato che la prima cosa è non fare fallo da centrale. Perciò sostengo che quando la Juve ha preso Chiellini ha preso un giocatore normale, non un fenomeno. E i problemi che aveva Bonucci erano della Juve, era Chiellini e non Bonucci. E poi la seconda è che secondo me alla Juve non manca niente tranne un grande attaccante, perché il Milan c'ha Ibrahimovic, che quando non gioca bene gli risolve i problemi, l'Inter c'aveva Eto'o, il Napoli c'ha Cavani, la Juve si avrebbe preso secondo me Agüero, forse Conte al primo anno sarebbe riuscito a vincere lo scudetto. La ringrazio e l'ascolto in radio. Grazie a lei Ferdinando, beh, siamo un po' prestino adesso per dire, per essere così, così sicuri, no? delle proprie analisi. Io non so se con Agüero avrebbe vinto il campionato, non so se davvero non lo vince anche con questo organico. È vero che manca un grande attaccante di vera grande personalità, nel senso che tutti quelli che hanno preso in questi anni li hanno purtroppo un po' sbagliati, oppure se li hanno indovinati non sono di questa caratura, nel senso che né Matri né Quagliarella sono Ibrahimovic, ma non è che gli Ibrahimovic li trovi sotto i cavoli, e gli Agüero costano, e mi pare che la Juventus abbia chiuso con 90 milioni di rosso, no? L'ultimo bilancio, e 90 milioni di rosso, insomma, cioè già sono tanti così, ma con Agüero sarebbero diventati evidentemente anche di più. Su Chiellini sono d'accordo. Aldo da Siena, buongiorno. Buongiorno Veracini. Senta, volevo un suo parere su un fatto che io credo, non lo so, forse mi sbaglio, forse io credo che, visto le partite e le squadre in questo inizio di campionato che si sono susseguite, ho l'impressione che fosse organico pieno, non le mancassero 10-11 giocatori, le mancano tra l'altro 7 titolari, ho l'impressione che, visto queste pretendenti allo scudetto, Juve, Inter, Roma, Lazio, non ce ne sia per nessuno, ecco. Sapere quello ne pensava lei, perché se a questi gli manca Ibrahimovic, Gattuso, Robinho, Ambrosini e compagnia bella, questi, cioè, lo vincano sotto gamba. E poi un'altra cosa, Cerci secondo me è un grandissimo giocatore e sono contento che abbia Mihajlovic come allenatore, perché Cerci è un cavallo matto, ma Mihajlovic lo doma, stia tranquillo, lo doma. Buongiorno a lei, lo doma, questo non è male. Sì, che il Milan abbia l'organico migliore non c'è dubbio, però poi sa, non sempre con l'organico migliore si vince, con l'organico migliore magari si può fare ugualmente fatica o si può non vincere, quante volte è accaduto nella storia. È chiaro che questo Milan è meno giudicabile di altre squadre perché non ha, al di là di quei titolari assenti non sono tantissimi. E insomma, quello davvero solo, quello che veramente manca in pieno a Ibrahimovic, possiamo aggiungerci magari Boateng e un altro, ma insomma ma il problema è che non hai ricambi, giocando ogni tre giorni, cioè i Seedorf a maggior ragione sono da levarsi il cappello, no? Perché stanno anche tirando il carretto e non soltanto dando i colpi vincenti a quell'età. Giuseppe, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Dunque, la mia osservazione è questa: io seguo il calcio, ho 63 anni, da parecchi anni, eccetera, e lo seguo come un binario parallelo tra ciò che succede in campo e ciò che fanno le società fuori. Non è un argomento nuovo, immagino, no? Quindi, allora io mi chiedevo, se l'arbitro è il 12° uomo in campo e il 13° dico io, sono le società che operano all'esterno. Però ho notato che ultimamente non si parla più di questo aspetto, del valore delle società, così come si muovono a livello di finanze, a livello di investimenti, a livello di... Allora mi era venuto in mente di chiederle se da qualche parte posso trovare notizie, o se è il caso di fare come mio stimolo a una discussione un inserto speciale per il quotidiano Il Sole 24 Ore, che io ogni tanto acquisto, a parte la radio che la sento tutti i giorni, soprattutto lei, per avere un aggiornamento su come si muovono queste società in campo finanziario. Perché bisogna vedere cosa intende Giuseppe per come si muovono. Noi in generale cerchiamo di dare spazio a tutte le tematiche, ad alcune tematiche economico-finanziarie legate al mondo del calcio, in particolare il giovedì. È il giorno in cui è presente spesso, ripeto, Marco Bellinazzo, che è il collega del Sole che proprio di questa materia si occupa e con grande competenza. Questo non accade, non è accaduto nelle ultime due settimane, perché Bellinazzo è convolato a giuste nozze e deve rientrare ancora, però da ottobre lo ripinziamo e chissà che gli appuntamenti con lui non siano in parte, o perlomeno una parziale risposta a quello che lei domanda. Grazie comunque, ultimo intervallo di oggi, strade. È impossibile che Giuseppe Rossi giochi domani sera a San Paolo contro il Napoli, non ha nulla di grave ma dovrà stare fermo almeno per una settimana, l'ho detto il suo agente ai microfoni di Sky Sport 24. Bene, c'è stato un tempo in cui le notizie sanitarie perlomeno le fornivano i medici sociali, o in alternativa agli allenatori, o in alternativa ancora, non so, agli addetti stampa. Adesso sono gli agenti dei giocatori stessi che ci informano di tutto. Meglio così, perché sennò non avremmo saputo come sciogliere questo dubbio, perché in effetti che il Villarreal possa disporre domani sera in casa del Napoli di Rossi o non possa disporne, un po' di differenza sinceramente la fa. Sentiamo cosa ha scovato Nicola Filippone per lunedì 26 settembre. Sembra ieri. 26 settembre 1965. A Stoccolma la Germania Ovest batte la Svezia 2-1 in un incontro di qualificazione ai mondiali del 66. Debutta con la maglia della nazionale tedesca Franz Beckenbauer, ventenne difensore del Bayern Monaco. È l'inizio di un'esperienza straordinaria. In 12 anni di nazionale, Kaiser Franz totalizzerà 103 presenze, arriverà secondo ai mondiali inglesi e terzo in Messico e poi vincerà da capitano e trascinatore gli europei del 72 e i campionati del mondo del 74. Per non parlare di quelli da allenatore del 1990. Una volta era il pubblico il 12° uomo, spero sia un lapsus pensare che adesso sia l'arbitro, scrive Marco da Reggio Emilia, sì, e si riferisce all'intervento dell'ascoltatore romano di prima, che palesemente intendeva dire che era l'arbitro il 12° uomo e che adesso sarebbe curioso di sapere se questo ruolo da 12° o eventualmente a 13° lo fa la società e come lo fanno le rispettive società e come svolgono questo loro compito. Nicola in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo tornare sul turnover di Mazzarri, nel senso che avevo sospeso il giudizio aspettando le partite di questo weekend per capire chi l'aveva fatto e chi no, come sarebbe andata la giornata, e ho visto che sia l'Udinese che Genova, per loro stessa missione dei giocatori, hanno pagato la stanchezza così. Il Napoli me lo aspettavo più lucido e invece devo dire che non ha reso quanto mi aspettassi, quindi devo fare i complimenti alla Fiorentina. Cosa ne pensa? Penso che la Fiorentina meriti i complimenti e penso anche comunque che continuo a pensare che 7-8 uomini cambiati di colpo siano troppi per un avversario. O meglio, possono non essere troppi se sei il Siena. E sto dicendolo con tutto rispetto, intendiamoci. Cioè se tutti sono più o meno della stessa caratura. Ma se tu hai parecchi giocatori leader in una squadra, e sto parlando degli Amsic, dei Cavani, ma anche degli Aronic, insomma, se in tutti, degli Ingler, se in tutti i reparti di giocatori che si staccano rispetto agli altri, credo che 7 su 11 sia una mossa poco felice. Carlo Atalantino di Bergamo manda un messaggio molto interessante, che è una domanda. Dice: buongiorno, mi spiega perché Doni viene ancora idolatrato a Bergamo? Se non può essere prima in classifica l'Atalanta, la colpa non è sua, almeno così almeno dice la giustizia. Carlo, io non posso che sottoscrivere quello che lei, questa sua domanda, cioè rispondere affermativamente innanzitutto, ma poi anche sottolineare questa riflessione. Michele da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Io le telefono per chiederle una sua opinione su questo argomento, e forse sono un po' fuori tema, non lo so. Comunque, in questi inizi di campionato sembra che gli allenatori facciano un po' fatica, siano un po' rigidi nel cambio dei moduli, cioè hanno un loro modulo e dei due preferiscono andare a fondo con quello che non provare a cambiare le cose. Io sono un sostenitore del Bologna, e anche Pisoli ha avuto gli stessi problemi a Bologna, voleva giocare con la difesa 3, poi non era possibile, insomma i giocatori non ce la facevano. E l'esempio più grosso è Gasperini, che proprio sembra quasi che si sia voluto auto-eliminare da solo Novara, mettendosi con quello schieramento lì. Com'è possibile? L'allenatore dovrebbe essere un pragmatico, secondo me, uno che, a parte Guardiola che vabbè è un poeta, però insomma, però quello non va bene come esempio, non si può prendere Guardiola come esempio del lavoro dell'allenatore, però gli altri dovrebbero un po' avere questo senso pratico, insomma, ecco, di dire: io preferisco quel modulo lì, ma se non ci si riesce li metterò in un'altra maniera. Ci sono due modi, di approcciarsi al calcio da un punto di vista della guida tecnica, no? E non da oggi, da sempre praticamente. E cioè, io credo in un modulo e applico quel modulo, chiunque siano i giocatori, e questo è il primo. Anzi, secondo me dovrebbe essere l'ultimo, ma insomma è esattamente quello che anche lei non condivide. E l'altro modulo è: io ho questo tipo di giocatore a disposizione, hanno le seguenti caratteristiche, sono grosso modo abituati a giocare così, e allora questa squadra deve giocare così perché è l'unico calcio che sa fare, o è il calcio che sa fare meglio, perlomeno al momento. Poi si può sempre pensare di andare avanti, si può, ma guardi che lo stesso Guardiola è partito da un calcio molto meno futuribile di quello che vediamo oggi. Poi che questo calcio fosse spettacolare fin dall'inizio dipende dalla sua bravura, ma soprattutto dalla straordinaria qualità degli interpreti. Però il Guardiola della prima stagione di Barcellona, in cui pure vinse tutto quello che c'era da vincere, giocando sin da allora un calcio spettacoloso, non gli passava nemmeno per la testa di non avere due centrali difensivi di ruolo, che erano Pujol e Piquet, Piquet era ancora un po' giovane, forse lo alternava con un altro, con Gabi Milito, quello che è. Insomma, era il centravanti c'era, tant'è vero che il secondo anno cercò ed era Eto'o, tra l'altro. Cercò, andando via Eto'o, un centravanti ancora di maggiore personalità che doveva essere Ibrahimovic, e invece poi fu tutto un errore. Cioè, per dire che è adesso che il Barcellona è andato un po' fuori dalle righe, no? Fuori dalla normalità, ecco. Ma allora non era così. E c'è questo concetto di ci sono questi allenatori che invece sono convinti che il loro modulo sia più importante degli interpreti che lo attuano, e sinceramente io penso che siano, salvo proprio rarissime eccezioni, sono destinati a battere il naso, insomma. Salvatore ha chiamato da Cuneo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, non è che le faccia il punto a lei, ma tutte le trasmissioni sportive, radio televisive, dalle varie. Cioè, come mai trascurati così profondamente la Serie B? È un peccato. Fate qualcosa, parlatene, porca miseria. Basta, tutto lì. Grazie, Salvatore. Un appello quasi disperato, no? Mi pare. Vedremo di aprire non so che cosa, onestamente. Io credo che ci siano. È un vecchio discorso. È il discorso dei quotidiani politici e dei quotidiani sportivi. I quotidiani politici hanno un determinato spazio per lo sport, che è uno spazio abbastanza limitato, e quindi vanno sugli argomenti di quasi sempre, insomma, comunque privilegiano gli argomenti di interesse generale. Poi ci sono i quotidiani sportivi invece che di spazio ne hanno molto, ma molto di più, e che quindi possono permettersi di spaziare anche su altre materie e su altre discipline. Credo che sia un po' il nostro caso. Credo che Radio 24, lo spazio che lo sport ha a Radio 24 sia già abbastanza sufficiente, e non credo che questa trasmissione accrescerebbe la sua popolarità e il suo appeal se sacrificasse la Serie A a vantaggio della Serie B. Grazie a Mauro De Angeli in regia, ad Alessandro Balia in redazione. Buon pomeriggio a tutti.